stato anche sfiorato nella relazione scorsa, vale a dire delle nuove scienze sociali sulla crisi di fine secolo. Ci muoveremo quindi da un lato sul terreno appunto della nascita di queste nuove scienze sociali che avviene molto spesso al di fuori dell'ambito accademico e dall'altro diciamo con il tema della crisi di un mondo borghese, quindi intorno agli anni 80-90 del secolo scorso, che vuol dire anche crisi del liberalismo, crisi del positivismo da un certo punto di vista, crisi del parlamentarismo, quindi tutti i temi in qualche modo sfiorati, anche se appunto non trattati, dalla relazione di Moretti e che si collegano anche al tema del corso di aggiornamento dell'anno precedente, dedicato appunto alla società di massa, perché sono temi che hanno a che fare evidentemente appunto con l'emergere di nuovi gruppi, folle, classi, movimenti, quindi con un universo in qualche modo in decomposizione. La professoressa Luisa Mangoni, che ringrazio molto appunto per aver accettato di tenerci in questa lezione, insegna storia contemporanea all'Università di Trento da quest'anno. Certo non ha bisogno appunto della mia presentazione, però vorrei soltanto ricordare appunto che tra i suoi molti lavori ha scritto un bellissimo libro che si intitola, sui temi appunto di cui ci parlerà oggi, che si intitola Una crisi fine secolo, la cultura italiana e la Francia fra 8 e 900, volume pubblicato credo nell'85, e successivamente un libro appunto che ha suscitato molto interesse ed è stato tra l'altro libro del mese sull'indice, su uno degli ultimi numeri dell'indice dell'89, In partibus infidelium, Don Giuseppe De Luca, Il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento, e da ultimo ha raccolto gli scritti di Delio Cantimori degli anni del fascismo, ma non solo, ci sono ad esempio dentro anche i pareri editoriali di Cantimori per la Einaudi e per altre case editrici, raccolta appunto, curata da Luisa Mangoni, che ha suscitato anche non solo interesse e dibattito, ma anche polemiche. Questo appunto solo per presentare un pochino la figura di studiosa di Luisa Mangoni, che ringrazio ancora a nome dell'Istituto e le cedo la parola. Grazie. Grazie. Il cumulo di fotocopie serve a richiamare alcuni testi della nostra discussione con un punto di partenza. È il 1876, quando Cesare Lombroso raccoglie le dispense dei suoi anni precedenti con il titolo L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie. Il libro, di cui esistono numerose edizioni, la più ampia è quella del 1898, ha una fortuna incredibile per la cultura italiana. È forse il libro più tradotto in tutte le lingue, francese, inglese, danese, spagnolo, ha avuto un peso rilevante nell'organizzazione del sistema penale sudamericano, ha fatto di Lombroso una figura centrale della cultura e del dibattito europeo. Ci fermiamo un attimo su questo libro perché, pur essendo apparentemente un libro molto lontano dalle nuove scienze sociali, così come le intenderemo, ne è certamente il punto di partenza e di origine non solo per l'Italia, ma per la Francia, per la Germania, per l'Inghilterra. Su Lombroso l'ironia è facile. È l'uomo che cercava di ancorare il delitto al reo, individuando nel reo qualcosa di identificabile da un punto di vista fisiologico. In qualche modo il reo per Lombroso è sempre ricostruibile sui suoi caratteri somatici. Addirittura può essere prevenuto il delitto basandosi sui caratteri somatici. Addirittura un reo che presenti alcune caratteristiche fisiche è necessariamente uno che sarà ancora delinquente. È l'uomo delinquente nato, in qualche modo. Sono teorie, ve le presento in termini assolutamente semplificati, che appunto oggi possono fare sorridere, ma che si ha la singolare sorpresa di vedere affiorare ogni tanto qua e là nel dibattito anche contemporaneo, e si ritorna al problema degli aspetti fisici del reo. Qual era il proposito di Lombroso in questo suo libro? Innanzitutto intervenire massicciamente dal punto di vista del diritto penale. Bisognava, il giudice in genere, dice Lombroso, analizza il reato, si muove sul reato, mentre invece bisogna esaminare il reo in quanto tale. E nel reo Lombroso vedeva riaffiorare un atavismo che portava quella persona necessariamente a delinquere. Naturalmente rimane sullo sfondo un problema che è per noi centrale: come delinquere? Cioè, è chiaro che quell'uomo, nella teoria di Lombroso, sarà un delinquente in qualsiasi società. Se è in una società di cannibali, non mangerà carne umana e esprimerà così la sua delinquenza. Se è in una società contemporanea, agirà secondo il delitto della società contemporanea. Quindi la società interviene per Lombroso, ma solo per definire il modo in cui il delitto si esprime. Non per definire o influire in nessun modo sul reo in quanto tale. Il che significa, e anche questo è un dato che forse vale la pena di tenere presente perché sarà per noi significativo, che per Lombroso non si pone il problema della normalità sociale. In qualche modo la sua analisi ne prescinde totalmente. Si pone il problema della normalità fisiologica, ma non da un punto di vista sociale. L'altro aspetto è che questi atavismi che riappaiono riappariranno grosso modo nelle stesse forme, negli stessi numeri, indipendentemente dal tipo di civiltà in cui essi affiorano. È una constatazione molto amara, badate, Lombroso è una figura per certi aspetti tragica davvero, per un uomo che è molto vicino al Partito Socialista e che si batte per una serie di innovazioni dal punto di vista della diffusione della cultura. La cultura, l'istruzione, la civiltà non riescono in nessun modo a intervenire sul delitto. Ogni civiltà paga un tributo di delitti che è pressoché identico e costante. In qualche modo è inutile sperare che l'istruzione, la morale, eccetera, abbiano effetti positivi sulla delinquenza. Possono averlo sul delinquente occasionale, quello che per Lombroso in qualche modo non è neanche delinquente, che ha commesso un delitto per occasioni del tutto particolari e irripetibili, ma non lo hanno sul delinquente recidivo. In questo senso il delitto non solo è irriformabile, ma è un fenomeno naturale. Ogni società produce una certa quantità di delitti. E questo è naturale, inevitabile e in qualche modo non curabile. Il che porta Lombroso ad alcune altre riflessioni. Se il delinquente nato non è né curabile né riformabile, quella che appare la cosa più violenta della lettura di Lombroso, la chiusura nei manicomi criminali o la pena di morte, appare per lui una logica conseguenza scientifica. Non nel senso che la società debba vendicarsi o punire chi ha colpito, perché chi ha commesso il delitto non è di per sé colpevole, ma la società ha un unico dovere, quello della difesa. Quindi, compito del diritto è costruire gli strumenti perché la società possa difendersi. Una difesa sociale senza nessun elemento aggiuntivo di vendetta. Naturalmente, però, la riflessione di Lombroso si estende anche agli aspetti della società nel momento in cui deve definire i modi in cui si esprime la delinquenza. La società a cui guarda Lombroso, la data del suo libro certamente significativa, 1876. Vi ricordo che le lettere meridionali di Villari escono appuntate sull'opinione nel 1875, che del 1875 è il viaggio di Franchetti e Sonnino in Sicilia, che è il momento in cui la riflessione sull'Italia, quest'Italia per tanti aspetti poco nota e poco conosciuta, comincia a arricchirsi di statistiche. Partono le grandi inchieste, l'inchiesta Iacini, l'inchiesta sull'industria. E in qualche modo la riflessione di Lombroso risente di questi aspetti. Siamo al momento in cui la sinistra storica va al potere, al momento in cui abbiamo un'attivazione sociale, sia pure marginale e limitata, al momento in cui una generazione risorgimentale ha in gran parte esaurito il suo compito, cominciano a esserci gli italiani della nuova generazione, l'Italia sembra qualcosa di più complesso da un lato, ma ancora difficilmente definibile nel suo tessuto sociale. E Lombroso comincia a riflettere sui mali della civiltà. Osserva, analizzando in un suo saggio l'incremento del delitto in Italia, che all'indomani dell'unità e dal 69 in poi, gli sembra che ci sia qualcosa che smentisce la sua osservazione che il numero dei delitti rimane grosso modo lo stesso. Cioè in Italia un incremento fortissimo di delitti che sono il prodotto specifico della nuova civiltà moderna. Lombroso è uno dei primissimi a riflettere sulle ferrovie, sull'inurbamento, su quello che lui chiama con espressione l'agglomero, in cui gli uomini messi in condizione ammassata si influiscano negativamente l'uno sugli altri. Ma Lombroso in Italia vede anche riaffiorare di vecchi delitti, quelle che chiama le associazioni a malfare, la mafia, la camorra, il brigantaggio. Cioè si trova in Italia a osservare il modo di esprimersi della delinquenza italiana su due poli diversi, prodotto l'uno della civiltà, prodotto l'altro dell'arretratezza. L'Italia si presenta a Lombroso tragicamente disunita, persino dal punto di vista del delitto. Osserva Lombroso in una sua pagina: l'Italia, adunque, non è fusa neanche nel male. Su questi dati noi dobbiamo fondare le leggi amministrative e penali per non violentare la natura umana con forzate unificazioni. Osserva che l'unità delle leggi è un errore in Italia e osserva ancora che per unificare un governo veramente e non sulla carta bisognerebbe livellare i costumi, la natalità, la precocità sessuale, livellare i climi, il suolo, le coltivazioni. Se no la legge imposta resta simile a Lucase che ordinava il mutamento della lingua. Si potrà straziarlo, tormentarlo un popolo, ma non gli si potrà far cambiare la lingua finché non avrà cambiato il clima, l'aria, la laringe, i nervi, donde sorgono le modificazioni glottologiche. Questo Lucase resta una prova dell'ignoranza e prepotenza umana. Quindi un'Italia che, a parere di Lombroso, viene ad esprimersi in un processo per cui Lombroso usa un'espressione insolita, l'ibridismo sociale. Cioè l'Italia viene ad essere, osserva Lombroso, che più che la scarsa civiltà di un paese vi influisce sulla delinquenza il cozzo contraddittorio, le mescolanze della poca o della troppa civiltà. Da questa assurda mescolanza, proprio come quella delle acque dolci con le salse, sorge un gravissimo danno, in specie quanto alla criminalità, poiché non si hanno i vantaggi delle due condizioni, ma se ne hanno i danni moltiplicati. Così i grandi agglomeri, le maggiori ricchezze, l'alimentazione più lauta, aumentano il vagabondaggio, gli stupri, i furti e ne rendono meno facile la rivelazione, mentre il rispetto della libertà personale, la facilità delle grazie, le giurie rendono spesse volte quasi impunito il delitto. E le leggi elettorali, quando si estendono, offrono un nuovo stipendio di potenza e di disonesti guadagni. Così si è veduta ora la camorra estendere le sue file sulla stampa, sulle elezioni dei consiglieri provinciali, forse sui deputati. Una antica denuncia, quella di Lombroso, ma che pone al centro quest'idea di un'Italia tutt'altro che unificata, anzi profondamente dissimile nelle sue strutture sociali, economiche, antropologiche, etniche, costretta insieme, anche qui Lombroso, come molti del suo tempo, lancia la sua accusa in un liberalismo dottrinario che impone leggi costanti, diritti comuni, doveri comuni, e che viene a incidere su società che non riescono ad amalgamarsi nella realtà. Questo però comporta da parte di Lombroso una maggiore attenzione, una più viva cura nell'analizzare la società italiana. In qualche modo questa è la sua versione della questione meridionale. Anche per Lombroso il problema esiste e andrebbe affrontato in termini, se questo non assumesse carattere di follia, osserva Lombroso, con tanti codici penali diverse, quante sono le diverse zone dell'Italia unita. Quindi arretratezza e quindi avanzamento. Osserva l'istruzione come l'ignoranza alla sua propria criminalità, perché l'istruzione va considerata più come una forza che come una ragione morale, forza che indirizza più al bene che al male, ma che può essere abusata e anche, in alcuni casi, tornare indifferente. È la lunga riflessione di Lombroso sul sorgere di un tipo di delitto inedito. Il delitto elettorale, il delitto di borsa, il furto politico, la corruzione. È un tipo di delitto che è il prodotto specifico della libertà e della civiltà e che va considerato in qualche modo come l'aspetto evolutivo del delitto, come i vecchi delitti contro la persona e la proprietà nei termini più elementari rappresentavano l'arretratezza del delitto, questa ne è la forma più attuale. Si capisce così come quando nell'89 in Italia viene reso finalmente operante il nuovo codice penale, è quello che del 1889 che va sotto il nome di Zanardelli e che probabilmente è il prodotto migliore del liberalismo italiano, quello in cui è più articolato, certamente secondo gli studiosi di diritto penale, di gran lunga più avanzato che non il codice penale del 1913, Lombroso trovi questo codice assolutamente inadeguato. La sua osservazione è abbastanza singolare, scrive un breve opuscolo nell'89 che si chiama Troppo presto. È un'espressione singolare perché sono circa 20 anni che i giuristi italiani si arrabattano per tirare fuori il nuovo codice e perché troppo presto è una delle espressioni costanti della cultura italiana dell'Ottocento. Troppo presto per il decentramento, troppo presto per il suffragio universale, troppo presto per il Partito Socialista, troppo presto per il codice penale, è un leitmotiv che trovate in quasi tutti gli uomini di cultura di questo periodo. Troppo presto, naturalmente, per Lombroso significa soltanto che le sue teorie non hanno avuto modo di affermarsi talmente da influire sul codice. Ma troppo presto perché il codice non tiene conto particolare della recidiva e perché il codice si propone in qualche modo, e questo è l'analisi, l'elemento centrale di Lombroso, di divenire una coesione morale di una società che ha perso altre coesioni. Il discorso di Lombroso è esplicito. Osserva un legislatore che più volte ripete non dover fare il penalista, il moralizzatore, fa invece il teologizzante. Il codice come sostituto della perdita dei vincoli tradizionali della società, quelli che ponevano limiti e controlli ai comportamenti. Lombroso è furente nei confronti di Zanardelli per avere messo condanne, per esempio, per l'adulterio, condanne per l'aborto, condanne per i duelli e per chi aiuta i suicidi e così via, perché queste a suo parere entrano in una sfera profondamente individuale e che non ha nulla a che fare col delitto. Non è compito del codice interferire, intervenire all'interno di questa realtà. Siamo di fronte a dati, a parere di Lombroso, assolutamente occasionali e non qualificabili come delitti. Certo, moralmente riprovabili, ma in quanto tali non più di tanto, ma non da sancire. Questo per dirvi che c'è in Lombroso una reale ambivalenza di stesura. Ma l'89, l'anno del codice, l'anno del volume di Lombroso, è un anno significativo per molti aspetti. Francesco Crispi sta accelerando la sua riforma burocratica e amministrativa dello Stato italiano. Cominciano una serie di indagini, ce ne sono un numero infinito, sul vagabondaggio, sul suicidio, sulla emarginazione sociale. Non siamo più alla vecchia aspetto dell'arretratezza. Cominciano ad esserci i riflessi, evidenti almeno a chi ritiene di doverli sottolineare, di una società inquieta, di una società difficilmente componibile, di una società che lascia ai suoi margini un numero altissimo di realtà, che poi quelle su cui interviene la legge di pubblica sicurezza voluta da Crispi, quella che indica nei vagabondi in qualche modo dei disadattati sociali e dei eventuali pericoli politici. E nel 1890 Lombroso fa un singolare salto di qualità. Scrive il libro più significativo e più importante, non per la sua teoria, è un libro anzi considerato molto poco da questo punto di vista, ma per l'effetto dirompente che ha in Italia e in Francia. Il libro si chiama Il delitto politico e le rivoluzioni. È del 1890, raccoglie, come spesso fa Lombroso, pezzi già pubblicati sull'archivio di psichiatria, e pone al centro un dato nuovo e significativo, che è l'altra faccia dei vagabondaggi e della marginalità: il delitto politico. La rivolta, la rivoluzione, la sommossa, è un problema che mette Lombroso di fronte a difficoltà evidenti. Innanzitutto, come distinguere una rivolta da una rivoluzione? Lombroso dice che la rivoluzione è un fatto fisiologico e positivo, la rivolta è un fatto negativo. Ma quando è che una rivolta è rivolta e non è rivoluzione? E Lombroso deve abbandonare, anche se fa centinaia di statistiche per spiegare i climi, i tempi, le meteore, come lui le chiama, i crani, il genio, il malato e così via, Lombroso deve fine ammettere che l'unico modo di valutazione è a posteriori. È una rivoluzione quella che ha avuto successo, è una rivolta quella che è fallita. Un primo accenno che ne apre un secondo che io ho sempre trovato di straordinario interesse. Stiamo parlando di rivolta e di rivoluzioni. C'è un lungo capitolo sul misoneismo delle folle, cioè il rifiuto del nuovo. Le folle sono conservatrici, tradizionaliste. La rivolta è in questo senso doppiamente negativa, perché cerca di spingere in avanti e porta a un ritorno ancora più grave indietro. Le folle parlano un linguaggio che è un linguaggio tradizionale, vince quella rivoluzione che riesce a innestarsi in qualche modo in questo linguaggio. I demagoghi sono elemento centrale della rivoluzione. Lombroso si mette lì a scrivere pagine e pagine sul cranio di Sei Giusto, quello di Marat e così via. Le folle quindi sono conservatrici. È un singolare discorso, partendo dalla riflessione sulla rivoluzione e sulla rivolta. Cioè l'idea che la folla sia tradizionalista e conservatrice è un elemento quantomeno insolito, e che comunque apre un tema. Non siamo più di fronte all'uomo delinquente nato, al reo. Siamo di fronte a un comportamento collettivo. Cioè al centro non c'è più l'individuo, ma c'è un comportamento sociale, sia pure visto e analizzato nel suo caso estremo. È un primo spunto da cui prendere le mosse, perché da questo spunto che prende le mosse è tutta la scuola di Lombroso. La scuola di Lombroso è una scuola singolare, ha un numero tutto sommato ridotto di medici alienisti o di studiosi di criminologia in senso stretto, ha un numero molto alto di letterati, Guglielmo Ferrero che aveva studiato con Carducci, che poi di Lombroso divenne genero sposando la figlia Gina, che credo sia la prima donna laureata in medicina in Italia e che poi ha continuato i suoi studi sul problema femminile, Scipio Sigele, il nazionalista trentino, allora socialista, a Lombroso molto legato, Morselli che invece è medico, Ferri che è avvocato. Tutto il positivismo giuridico e criminologico si addensa intorno a Lombroso e parte da lui per spaccare il quadro che Lombroso aveva costruito. E badate che non è privo di senso che la maggior parte degli innovatori dal punto di vista delle scienze sociali, il caso si ripete per lo psicologo dei comportamenti delle folle, Gustave Le Bon, e si ripete per Gabriel Tarde, studioso delle leggi delle imitazioni nello stesso periodo, vengano da studi criminali. Cioè Tarde insegnava diritto penale ed era aggregato al Ministero per le statistiche del diritto penale, Le Bon aveva fatto studi craniometrici per individuare appunto le caratteristiche fisiche del delinquente. In qualche modo la delinquenza e il suo mutare, così come è avvenuto per Lombroso, si pongono al centro dell'intuizione di un mutamento sociale. Ne sono un sintomo significativo, sono lo strumento immediatamente percepibile di questo mutamento. Abbiamo quindi questa scuola di Lombroso che comincia a riflettere comportamenti collettivi, folla, atteggiamenti conservatori della folla. Nel 1893 Guglielmo Ferrero, allora giovanissimo, scrive un libro su i simboli nella giurisprudenza, nella sociologia, nella psicologia, e cerca di ricostruire quello che lui definisce, è il primo che a me risulti ad usare questa espressione, l'inconscio collettivo. I gruppi sociali si muovono attraverso l'uso di immagini che fanno parte di un inconscio collettivo di questi gruppi sociali stessi. Anche se l'espressione gruppi sociali è largamente anacronistica, perché questi studiosi parlano quasi sempre di folle, cerca di identificare il gruppo a cui si rivolgono. Ma ancora più importante è proprio Scipio Sigele, che nel 1891 pubblica in italiano un volumetto che si chiama La folla delinquente, che nel 1892 viene tradotto in francese, e accanto alle opere di Lombroso ha una serie di recensioni massicce da parte di studiosi francesi. C'è una lunga, annosa e tutto sommato non molto utile per noi polemica tra Sigele e Le Bon su chi sia stato il primo ad affrontare il tema dei comportamenti delle folle. La folla delinquente questo è ovvio, un gruppo di persone che commette atti in massa che sono considerati lesivi dal punto di vista dell'ordine pubblico. Dov'è la responsabilità? Come si fa a cogliere la responsabilità in un'azione collettiva? È il punto di partenza della riflessione di Sigele, che però si articola molto di più. Sigele osserva che in realtà il comportamento collettivo non è, come aveva sostenuta tutta la sociologia positivista, da Comte a Spencer, una somma di comportamenti individuali. analizzare un comportamento collettivo su questi strumenti è, secondo Siegel, un errore radicale. Il comportamento collettivo è una realtà totalmente diversa dalla somma delle persone che compongono quella folla. Cioè la folla è un essere, è un organismo vivente che agisce attraverso comportamenti, schemi, azioni in cui nessuno degli individui che ha composto quella folla si riconoscerebbe da solo. E questo comportamento è tendenzialmente di un livello più basso della somma delle persone che compongono la folla. È una media a scendere. È il luogo, appunto, dove si afferma questo inconscio collettivo di cui aveva già parlato Ferrero. La differenza tra Siegel e Le Bon è assolutamente evidente nel titolo. Siegel appartiene ancora a una tradizione che parla di folla delinquente. Le Bon parla di psicologia della folla senza ulteriori specificazioni. È il comportamento collettivo in quanto tale. Ma come è noto, Le Bon è uno dei pochissimi studiosi che lo precedono nel tempo che Sigmund Freud abbia lungamente citato. Gran parte del libro di Le Bon sulla psicologia delle folle si fonda sull'inconscio collettivo dei comportamenti sociali. Il primo problema è definire cos'è una folla. Una folla, certo, è una folla rivoluzionaria, una folla di un corteo, è un pubblico a teatro, è un consesso elettorale, è una somma di persone riunite occasionalmente e non tradizionalmente, non per un lavoro continuativo, perché qui siamo più vicini alle corporazioni che alle folle, che tendono ad agire e a comportarsi in un modo in cui la perdita dell'individualità è certa. Nessuno può attribuire alla folla un comportamento che parta dall'individuo. È un'altra realtà totalmente diversa. La folla è tradizionalista, la folla è immaginifica, la folla si muove per suggestioni sentimentali, la folla non può essere convinta con un discorso razionale, la folla ha movimenti improvvisi e inaspettati e non controllabili, la folla è donna e su questo non si discute, fino all'uso che Mussolini farà di Le Bon, ma la folla è certamente irrazionale. Le Bon si sofferma a lungo, con molta attenzione, sugli istintivi conoscitori della folla, che sono ovviamente Napoleone I e Napoleone III, quelli che si sono diretti verso la folla stimolandone gli aspetti conservativi e immaginari per istinto. E compone un quadro che non vuole essere delle istruzioni per l'uso. Le Bon sta facendo solo un'analisi e una ricerca sociale, ma compone un quadro di quale deve essere il comportamento di fronte alla folla da parte del demagogo o del meneur, come lo chiama Le Bon. Quindi da Siegel a Le Bon uno scarto consistente. E la prima affermazione esplicita nell'introduzione di Le Bon: noi stiamo trattando scienze nuove. Non c'è niente nel passato che ci possa aiutare. Noi non facciamo sociologia nella tradizione positivistica. Noi facciamo scienze sociali. Noi studiamo la psicologia dei popoli, la psicologia delle folle, la psicologia dei gruppi, la psicologia delle razze. Si innestano qui due personaggi di diversa ma identica valenza nel dibattito tanto italiano che francese, uno più noto dell'altro. Il primo è il sociologo franco-alsaziano Émile Durkheim, che nel 92 scrive la sua analisi sulla divisione sociale del lavoro, e comincia a vedere i gruppi nella loro frammentazione, organizzazione del lavoro e del prodotto. L'altro è Gabriel Tarde, che nel 94 dà l'edizione definitiva del suo libro sulle leggi dell'imitazione. Abbiamo due ipotesi contrastanti. Per Tarde la società si muove per amalgama successivo. La legge dominante è l'imitazione. C'è un momento originario, non più identificabile, in cui qualcuno ha mosso il primo atto. Le altre sono successioni di omologazioni. La realtà sociale tende a omologarsi inevitabilmente. Durkheim invece la vede nella sua frammentazione. C'è un punto che però unisce tutti. Siegel, Ferrero, Lombroso, Durkheim, ed è la convinzione che la società è malata, ed è malata in modo irrimediabile. È malata perché ha perso gli antichi vincoli e non ne ha nuovi. Non solo perché è una società di massa, ma perché è una società senza regole. Perché le regole del passato erano date dalle corporazioni, erano dati dalla religione, erano dati da i limiti familiari e l'organizzazione familiare, che sono tutte quelle cose che lo Stato liberale, il liberalismo nella sua struttura, ha rimesso violentemente e nettamente in discussione. Ogni uomo è un cittadino mai solo, non ha più legami con gli altri, non ha vincoli di solidarietà, e questi vincoli sono difficilmente ricreabili da un punto di vista semplicemente razionale. L'analisi dirama da qui in una serie di filoni che sono infiniti, che andrebbero tutti analizzati, ma che non abbiamo il tempo di analizzare. È la polemica contro il parlamentarismo, che non è più la polemica contro il parlamentarismo nel senso che il Parlamento è farraginoso, ma che ne mette in discussione la struttura originaria. Se i gruppi si comportano mediamente a un livello inferiore delle individualità che le compongono, l'espressione latina buoni uomini e cattivo senato diventa una specie di regola da un punto di vista psicologico. E quindi il parlamentarismo è messo in discussione in quanto tale. Riflessioni sul suffragio universale, il luogo in cui abbiamo somme di sovranità individuali senza alcuna connessione e legame tra di loro. E allora la richiesta massiccia di tornare a forme di voto, adesso anche risibili come il voto multiplo. Allora i docenti hanno un voto che vale 12 e invece il poveraccio di campagna ha un voto che vale mezzo, in modo da equilibrare questa somma di realtà. Oppure il voto per corpi. La prima immagine di una ripresa del corporativismo è un voto che in qualche modo riproduca dal punto di vista della divisione del lavoro i ceti e le strutture. Ma il punto fermo è proprio la società malata. Concludere ricordando un testo di Emile Durkheim che riprende una serie di spunti di altri autori, tra cui appunto Lombroso, che è del 1897 e si chiama Il suicidio. Non è ovviamente un testo allegro, ma nessuno di questi lo è. Durkheim esamina il suicidio da un punto di vista del tutto particolare, cioè il suo punto di partenza e la sua ragione di riflessione è innanzitutto sul suicidio come prodotto del progresso. Cioè lui parte osservando che il tasso sociale dei suicidi si spiega solo sociologicamente. La costituzione morale della società fissa in ogni istante il contingente delle sue morti volontarie. E va rianalizzando quali erano le strutture che vincolavano l'uomo a non suicidarsi. Erano prima fra tutte la struttura sociale. Il suicidio è un atto egoistico, così lo chiama Durkheim, nel senso che un uomo non si sente più socialmente vincolato, agisce a livello individuale. La società non gli pone tessuti, legami, connessioni tali da consentirgli di non suicidarsi. La società in tutti i suoi aspetti, come vincolo solidale, come vincolo familiare, i contraccolpi sulla famiglia, in Francia tra l'altro con la Terza Repubblica è stato introdotto il divorzio, i vincoli religiosi, ma date che non c'è nessun aspetto di tipo da credente in Durkheim. Lui indica, per esempio, come religione particolarmente efficace contro il suicidio la cattolica, perché è particolarmente ricca di momenti rituali e sociali nella sua organizzazione, e quindi in qualche modo vincolante. Si può dire che il suicidio è un fenomeno normale, come era per Lombroso, ma per lo stesso Durkheim, il delitto, nel senso che era un fenomeno che si ripeteva costantemente e in quanto tale, da un punto di vista dello studioso delle scienze sociali, andava indicato come normale. E Durkheim dice di no. In questo caso non si può parlare di un fenomeno normale, perché non è detto che il progresso debba avere queste caratteristiche. Cioè, in qualche modo, scusate, vedo se riesco a ritrovare la citazione di Durkheim, che dice che il suicidio non dipende dall'intrinseca natura del progresso stesso. È probabile che il movimento ascensionale dei suicidi abbia per origine uno stato patologico che attualmente accompagna la marcia della civiltà senza esserne condizione necessaria. Quindi c'è una patologia del progresso. Non è necessario che sia così, ma siamo di fronte a un fenomeno che è essenzialmente patologico. La caduta anche delle corporazioni per Durkheim è un elemento che accentua il suicidio, perché in qualche modo ha limitato quelle regole anche economiche che vincolavano e limitavano un cittadino. La riflessione di Durkheim, come di tutti gli autori di questo periodo, è sulla grande capitale finanziario, sul capitale anonimo, incontrollabile e incontrollato, sulla nuova feudalità e poteri che esso assume, ed è sull'assenza totale di vincoli. Osserva Durkheim, lo stato di crisi è in noi costante e normale. Dall'alto al basso della scala si sollevano le cupidigie senza sapere dove fermarsi definitivamente. Nulla potrebbe soddisfarle, perché lo scopo a cui tendono è infinitamente tutto quello che possono di volta in volta raggiungere. Naturalmente Durkheim, come Lombroso, come gli altri, si muove non come moralista, ma come osservatore della società. In realtà lui non propone rimedi, ma giunge a una conclusione molto amara, soprattutto per uno come Durkheim, che, come per Lombroso, sulla sua fede democratica non ci sono dubbi, è uno dei pochissimi che durante l'affaire Dreyfus prese nettamente posizione a favore di Dreyfus tra l'intellettualità francese. Possiamo forse provare a tirare qualche piccola conclusione. Questi studiosi, abbiamo detto, partono quasi tutti dall'analisi della delinquenza in qualsiasi sua forma, per arrivare da questa all'analisi della società. È un primo punto di riflessione su cui ho già richiamato l'attenzione. In secondo luogo, tutti costoro hanno bisogno di un elemento definitorio nuovo. La parola sociologia è per tutti del tutto insoddisfacente. Ognuno di loro si autoproclama e si autoafferma, spesso con esiti disastrosi, perché poi da un punto di vista universitario finiscono a fare filosofia della storia o qualcosa del genere, come psicologo della società in senso diverso da quello tradizionale. ognuno di loro riconosce che per analizzare i fatti sociali bisogna partire dalla società. Inutile cercare spiegazioni esterne. La società stessa dà gli strumenti per essere analizzata e compresa, e questi strumenti partono dal rilevamento delle costanti. Ancora, la convinzione che tra comportamenti collettivi e comportamenti individuali c'è un abisso incolmabile. La psicologia individuale non serve a nulla per capire i comportamenti complessi di una società che è la società ormai delle folle. E su questo è ancora un punto centrale. E ancora le credenze collettive, i miti, rappresentano e vengono interpretati come fenomenologia del potere. Il potere si esprime attraverso un'autolegittimazione della classe dominante che trasmette e trasforma in mito e credenza collettiva questa sua autolegittimazione. Questo non rende in nessun modo più facile modificare la realtà. Vuol dire semplicemente che per questi autori che rifiutano di parlare in politico e parlano in sociale, non si può intervenire razionalmente sulla struttura politica della società. La struttura politica della società si fonda su vincoli ormai creati di tipo irrazionale, in cui il mito è assai più forte del discorso razionale. In una società di folle ci si appella al suo inconscio collettivo, non ci si appella alla sua ragionevolezza. Sono punti comuni di questi studiosi, ma sono anche punti che presuppongono, il dato è sullo sfondo, ma è reale, ognuno di essi parte da questa constatazione, anche il modificarsi strutturale della società. Nel momento in cui Le Bon scrive la psicologia delle folle, parte analizzando le Bourse du Travail francese, cioè le prime organizzazioni del collocamento, e vedendo lì un sintomo che lo obbliga a parlare in termini che non sono più, e questo è l'ultimo punto e quello finale, di tipo individualistico. Queste persone parlano, usando un'espressione molto confusa, in termini socialisti, dicendo, ognuno di loro, se stacchiamo la parola socialista dal suo significato corrente. Cioè parlano per una società che è vista sempre di più come struttura collettiva. Quindi socialistico nel senso di realtà e di somma di realtà sociale, ma non socialista nel termine più usato, lo dicono Siegel e tutti gli altri. In qualche modo il passaggio di Lombroso, i punti che abbiamo scelto come riferimento, l'uomo delinquente è un tipico prodotto di un individualismo positivista. Il delitto politico è il tipico prodotto di un mutamento che pone al centro elementi collettivi e non più individuali. Grazie molte, abbiamo come al solito il tempo per qualche domanda di chiarimento o di altro tipo. Prego, prego. Thank you. No, forse non in questo caso. Questo tipo di legame non esiste più. Cioè, l'elemento irrazionale è nel momento in cui, da un punto di vista politico, ci si rivolge a una somma di individui tra loro staccati che però si comportano come folla organica. Cioè, in qualche modo è lì la contraddizione in cui si agisce. Per Durkheim non c'è nessun rimpianto per la vecchia società, ma c'è l'assoluta convinzione che non si sono trovati strumenti di nessun tipo, anzi lo strumento che si è trovato è il peggiore di tutti, una straordinaria ipertrofia dello Stato che interviene su tutto ma non riesce a allegare. Non appartenenza sociale, non identificazione sociale. Perdita di un'identità collettiva, se non come folla, cioè è chiara il rapporto tra folla. La folla è la più casuale identità collettiva che non ha niente di vincolante, occasionale, casuale, messa lì. E invece qui invece è la vecchia coesione. Questi studiosi in qualche modo richiamano per indicare le corporazioni strutture tradizionali, per i francesi la gendarmeria, l'esercito, il clero, cioè gruppi di individui che hanno subito una stessa forma educativa per un lungo periodo e quindi agiscono come, ancora come corpi. Certo. Secondo Durkheim l'Italia è un caso esemplare, nelle sue statistiche, che non so dirle come abbia ricostruito perché non ne ho veramente idea, i suicidi in Italia dal 1870, cioè dall'unificazione definitiva, al 1888, sono le date che sceglie Durkheim, sono aumentati di una proporzione del 150%. E quindi lui lo identifica come un prodotto, ecco, non più normale ma anormale di una crescita contraddittoria. Se non c'è nessun altro per il momento, io volevo soltanto chiedere qualche chiarimento a proposito di quell'accusa di liberalismo dottrinario, no? Rivolta in che senso, ecco, dottrinario, nel senso che poi praticamente invece si esplicava con pochi effetti oppure che cosa? E inoltre, appunto, tutta questa schiera di nuovi scienziati sociali e aveva collaborato in qualche modo alla definizione di accorgimenti pratici, cioè era in qualche modo inserita in, che so, commissioni, che, cioè voglio dire, faceva anche, diciamo, oltre all'analisi, in qualche modo, prefigurava soluzioni, cioè mi sembra di aver capito di no, o che perlomeno non credeva che potessero essere poi efficaci un certo tipo di soluzioni razionali a problemi che invece erano davvero, avevano a che fare un po' con l'irrazionale delle folle, no? Però ecco, forse anche questo poi tutto sommato diventava un limite di azione politica in qualche modo. Rispondo prima alla seconda perché è forse per certi aspetti più semplice. Per gli italiani non c'è problema, sono considerati personaggi vagamente spostati che fanno cose strane, molto letti ma fuori del sistema da un punto di vista accademico e così via, a volte anche irritanti. Il trionfo di Ferrero quando pubblica nel 98 l'Europa giovane, che è un libro di cui parla tutto il mondo, dà un incredibile fastidio ai professori per bene i cui libri non vengono citati di fronte a questo giovane matto che... C'è naturalmente una grossa eccezione, non è un caso che è l'unica di scuola. Nel 1888 a Bordeaux viene creata una cattedra di sociologia che ricopre Durkheim. E Durkheim si rivolge soprattutto agli studiosi di diritto, cioè invita gli studiosi di diritto a entrare in contatto con gli studiosi di sociologia. Uno dei teorici dello Stato moderno più interessante, Léon Dugui, è un allievo di Durkheim. E da lui prende le mosse per un'analisi. Quindi ci sono queste eccezioni. La prima è un po' più complicata. L'accusa di liberalismo dottrinario c'è in tutti, direi, gli studiosi di diritto, politici e così via. L'Italia si è data strutture statuali del tutto inadeguate alla arretratezza della sua realtà. Cioè, per una forma di imitazione di altri paesi, non ha guardato a se stessa e ha preso dal fuori, anche perché c'era fretta, c'era urgenza, perché gli uomini che facevano l'Italia venivano spesso dall'esilio e così via, portando strutture inadeguate. Quindi si aveva, secondo l'analisi, e anche dei giuristi, Vittorio Emanuele Orlando la ripete 10.000 volte, si aveva una realtà troppo larga per la situazione italiana, a cui corrispondevano poi strette violentissime nei modi di applicazione. Orlando continua a dire che la magistratura italiana tende a sopperire, stringendo i freni, a quelle cose che il codice penale e il dottrinarismo della classe politica italiana hanno impedito di fare nel giusto modo. C'è molto, sono tutti allievi di uno storico francese, in realtà, Hippolyte Taine, il quale diceva che una Costituzione va fatta conoscendo prima il paese. Naturalmente Taine parlava con l'esperienza di uno storico francese che aveva avuto nel giro di 50 anni 13 Costituzioni e quindi ne aveva viste di tutti i tipi. Però, ecco, l'idea è in questo senso costante. Il grande interesse in prima battuta per Crispi, ma anche da parte di Lombroso, che poi lo accuserà violentissimamente. Guglielmo Ferrero scrive un piccolo libro che è veramente un pamphlet capolavoro, si chiama La reazione ed è un'analisi del carattere di Crispi. La prima apparizione di Crispi sembra un fatto straordinariamente positivo. Finalmente si stringono i vincoli, finalmente si organizza lo Stato, finalmente si chiude quest'immagine così di un liberalismo alla francese. Non è cosa per noi. Finalmente si mette al centro dello Stato, lo dirà molti anni dopo, nel 23, Vittorio Emanuele Orlando, un uomo che è meridionale e che porta in sé l'immagine dell'unico Stato che l'Italia abbia mai avuto, che per carità sarà stato corrotto e corruttibile, ma che aveva la struttura dello Stato. Quindi dottrinario perché considerato estraneo, esterno, giustapposto. Che poi questo fosse vero è molto più complicato e molto meno vero, ma anche Franchetti dice se la Sicilia fosse lasciata a se stessa ce l'avrebbe fatta. È che gli abbiamo messo intorno uno Stato che da un lato non aiuta e dall'altro aiuta troppo, che da un lato non c'è, che e quindi... Di Bismarck. Il Lombroso c'è molto poco su Bismarck. Lui si sofferma in particolare sulla monarchia di luglio in Francia come monarchia dei ceti medi particolarmente adatta alla Francia. Su Bismarck c'è invece moltissimo nell'Europa giovane di Ferrero, l'allievo di Lombroso, che dedica un lungo capitolo a Bismarck sulla base della sua teoria, che poi è una teoria che ha avuto molta fortuna per merito di Curzio Malaparte. Lui li chiama, Curzio Malaparte li chiama gli eroi capovolti, cioè che hanno successo in un paese gli uomini che sono in piena contraddizione con le caratteristiche di quel paese, e quindi Bismarck come eroe capovolto. Lombroso ha, come quasi tutti gli studiosi italiani, una lunga esperienza tedesca, lui ha studiato in università tedesche, ma, come dire, la Germania per questi uomini è spesso il riferimento genericamente politico, la cultura è tutta francese, cioè è dalla Francia che arriva questo tipo di cultura. L'altra domanda non mi ricordo più, no. Molto meno, perlomeno, ecco, io posso dire sulla base delle riviste che ho sfogliato, dalla Germania viene il socialismo della cattedra, ecco, Schmoller per carità, ce n'è fino a morirne, però Villari li cita, Nitti li richiama, in qualche modo la Germania è considerata come un paese che non porta analisi sociale. C'è, ora non riesco a ricordarmi, ma un lungo intervento di Durkheim a questo proposito, sulla Germania che ha posto i problemi, ma li ha risolti in termini statuali e quindi non riflette in realtà sulla società, riflette su un corpo. Ecco, questo mi pareva di... Come c'era? Per quali sue posizioni potesse sentirsi vicino a vista del determinismo, certo, del suo pensiero, certo, rispetto a un'organizzazione politica che invece era per il cambiamento, certo, per la modifica delle condizioni, certo, della società di quel tempo. Ma so se sì, sì. Sì, sì, c'è molto per Lombroso. Per Lombroso la cosa è un po' complicata. Lui è convinto che tutto quello che può essere fatto come rinnovamento sociale nella parte normale della società va fatta. Lombroso è promotore di decine di migliaia di conferenze che lui porta, è uno dei pochissimi professori universitari che esce dall'università facendo conferenze popolari a Torino sui problemi dell'alcol, l'alcolismo, sulla lotta alla pellagra, anche se prende cantonate memorabili da questo punto di vista e così via. Ed è molto legato a quel socialismo più o meno umanitario che si esprime nei Graf, nell'ultima parte di The Amicis, che spesso collabora a queste conferenze, nei primi circoli a Torino. Non ha dubbi sul fatto, e lui continua a dire, ahimè vorrei, ma le ragioni della mia scienza mi dicono che per quanto riguarda la delinquenza il problema sociale non esiste. E ha su questi scontri violentissimi con Turati, con Colaianni, eccetera, che invece affermano che il delitto è prodotto della società. Quando io dicevo che Lombroso è tragico, è perché lui veramente avrebbe tutta la voglia di dar ragioni a Turati. Ma quella che lui ritiene il prodotto della sua ricerca scientifica glielo impedisce. E quindi da questo punto di vista è molto contraddittorio. Non c'è dubbio sulla sua vicinanza al socialismo negli anni 80 e 90. E certamente poi i socialisti sono, buono o cattivo che sia questo, come è il caso di Enrico Ferri, tutti i suoi allievi, ma anche Ferrero e così via. Però è un socialismo che ha questo vincolo per Lombroso ferreo dell'analisi della delinquenza. Del resto, se si vedono le varie edizioni dell'Uomo delinquente, nel primo si apre con esame di 66 crani di uomini, poi 101 crani, poi 222 crani e così via, alla ricerca di questa fossetta occipitale che, non essendo, quando non è chiusa, pare che sia una cosa terribile che può portare a delitti impressionanti. Quindi è contraddittorio e Lombroso, anche se questo socialismo è assolutamente autentico, è anche molto attivo in certi momenti politici. Nel 98 Lombroso è uno che si schiera nettissimamente per i socialisti, in un momento neanche facile, quando schierarsi non era del tutto privo di rischi. Bene, se non ci sono altre domande, allora chiudiamo qui questa lezione e ci vediamo la prossima, per il prossimo incontro, che mi sembra sia il 12 di febbraio. Grazie a tutti. Ho bisogno di una sigaretta, di un po' d'acqua. Questa è molto più urgente.